don't forget your keys. Your engine is on. Eccoci qua dunque, questo è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Inizia prova tecnica di trasmissione anche per oggi, è il 25 marzo del 2026 e andremo avanti sino alle 22.30 allorché ci sarà 25 o'clock. Allora, prima di iniziare, doverosi saluti ad Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster, al pari di Flavio Derbecante, Maia che fedelissima ci sta ascoltando dall'Umbria. Abbiamo Marco Magia di Progetto Sonoro dalla Sardegna. Un saluto a Mariano Anniterri qui a Roma. Gabriele Panci di New Rising Throne. Da Berlino, Sarah Boy, il medico della peste, Like Awake, Angie Sellarione Angela, artista a 360 gradi. Un saluto a Carbocroma, interessantissimo progetto di electro-goth post-punk che abbiamo cominciato a conoscere in Disorder lo scorso lunedì. Un saluto a Pindar, Cecilia Miradoli. Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco, Hans Bakovic di Krur, anche lui ci tiene compagnia in Disorder. Un saluto ad Anna. Allora andiamo ad iniziare proprio con il già salutato Gabriele Panci, che è il fondatore di un interessante e ormai storico progetto Dark Ambient che porta il nome di New Rising Throne. Lui proviene dall'Interland romano, esattamente da Palestrina, bellissima località a circa 30 km qui da Roma. Al suo attivo tantissimi lavori ed è tornato anche nel 2025 con un lungo lavoro che si snoda attraverso la lunghezza di due CD. Si chiama The Journey Reach the Father, The Journey to the Reach the Fathers, titolo esatto. Il suono che andremo a goderci è quello, per i più informati naturalmente, che si muove nell'ambito del dark ambient più criptico e rarefatto, al limite quasi dell'isolazionismo. E ci andiamo ad ascoltare il brano di apertura del primo CD che porta il nome di The Living. Abbiamo aperto l'odierna puntata di prove tecniche di trasmissione con New Rising Throne di Gabriele Panci, che vado a risalutare. The Journey to Reach of the Father, album dal fascino misterico, dall'approccio trascendentale, ed effettivamente l'album si sviluppa attraverso meditazioni sulla morte e il rapporto con essa, dedicato peraltro al padre proprio del buon Gabriele. Come cita Bandcamp, l'album si dispiega come un passaggio interiore oltre i confini della vita, in una transizione, in un regno sospeso tra memoria e disintegrazione. Attraverso 5 porte simboliche, l'ascoltatore segue il cammino di un'anima che passa dal piano mortale alle profondità ancestrali. Si cita qui Gate, divisa in parecchie parti in questo doppio lavoro di New Rising Throne. Tra gli esponenti principali della scena dark ambient italiana, ed incide per la Cyclic Law, che pensavo fosse un'etichetta inglese, ma leggo invece che è francese. Saluto Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, Bruno Pallotto di Birrudrum, un progetto elettro qui romano. E saluto anche Tabula Rasa, che ci ascolta da Cortina d'Ampezzo. E noi si va avanti e andremo a sentirci ed a conoscere l'ennesima compilation ideata dal buon Raffaele Pezzella della Unexpressed Sounds Group Label, etichetta di Napoli, nonché musicista come sonologist. Ebbene, questa compilation va a confermare la tendenza, diciamo, abbastanza frequente di comporre compilation dedicate a scrittori, artisti vari, ed è questo il caso di Philip Dick. Ricordiamo le scorse settimane della compilation dedicata invece a William Gibson. Questa porta il nome di Ubiquitous, appunto Music Inspired by Philip K. Dick's Dystopias. Un overo di artisti di assoluto valore, e cominciamo con Mark Yortoy con The Ship's Electric Dream, e poi il più noto Eddie Newton di Claude DVA e Antigroup con Non Psychogenic Ambivalence. We'll be right back.

Esordisce dunque qui a prove tecniche di trasmissione questa Ubiquitous compilation dedicata a Philip K. Dick. Uscita dal cilindro magico di Raffaele Pezzella, e abbiamo iniziato a conoscerla attraverso le incursioni della Cosmic Music di Teutonica in Memoria di Mark O'Yortoy. Il riferimento a quella tradizione degli anni 70 è sicuramente dominante in The Ship's Electric Dream. In parte lo è anche in Non Psychogenic Ambivalence di Eddie Newton, anche se più votato alla più oscura sperimentazione. E naturalmente un compendio che conosceremo anche nelle prossime settimane. Ci sono vecchie conoscenze tipo Mario Lino Stancati, c'è anche Bruno Dorella in versione diciamo solista, in libera uscita per esempio sia dagli Ovo sia dai Sigillumes e tanti altri. Saluto Viziusi Banshees, anche lei ci sta ascoltando qui da Roma. Sentite che anche qui la valenza è sempre un po' riconducibile alla musica cosmica. È un album che ha parecchi episodi che si rifanno a quella tradizione. Dicevo, andiamo in Svezia con Necroticker, anche se l'etichetta che stampa questo lavoro è la Veneta Death in Venice di Eugen Pintras. Tit Regurgitation è un lavoro di qualche tempo fa che si va a concludere con No Sect. Tito Regurgitation ha momenti diversi al proprio interno, questi più minimali e meditativi, appunto di No Sect la traccia finale, ed altri invece più fiancheggianti, il Noise. E questa d'altronde è una peculiarità proprio della etichetta stessa di Eugene Bintras, l'ha detto in Venice, tra le migliori realtà italiane. Lui era Johan Anderberg, svedese, e anche lui ha un profilo Bandcamp dove ci sono tre lavori, tra cui questo. Cambiamo un po' ritmica e torniamo in Italia con i CCC, CNC, NCN, Alfieri dell'Electro Industrial. Album, come al solito, pregno di approccio politico e di critica all'attacco verso l'ambiente che è conseguenza delle cosiddette grandi opere. E tutto ciò è contenuto sia in Slogans, che è un CD annesso a Cemento, che è, diciamo, l'album con il titolo principale, che contiene appunto Slogans e anche due CD con dei file scaricabili. Andiamo a concludere la nostra analisi di questo lavoro con Slogan e Slogarest. A short set of words or a phrase that you want voters to remember even if they remember nothing else about you. Short enough to fit on palm cards, literature, yard signs, and the header on your website. The best slogans provoke, create curiosity, or spark an emotional connection with voters. It can be the reason you want the job, what you'll do with the job, something that makes you different than your opponent, or that special cause you are fighting for. Must you have a slogan? a slogan? proprio dispiego di energie elettronico-industriali. Per quanto riguarda CCC, CNCNCN, con questo slogan, con il sottotitolo Grido di battaglia, registrato al Rumore Nero Studio nel 2025, e dal quale abbiamo estratto slogan Fight War, Not Wars, e slogan Rest, Liberi Tutti. E più in là nel tempo ci andremo anche ad ascoltare le tracce scaricabili da internet, come ho accennato prima della partenza di questi due brani. Saluto Lucia Cagliassa di Lupsi, uno dei migliori artisti degli ultimi anni a livello di sperimentazione, proveniente da Udine. E rimaniamo in Italia con una miscela di suoni non lontanissima da questo approccio musicale, e andiamo da Imata. Dreaming is a combination of just poised images and sensations resulting from predictive calculations. Esce per la Cher Kair, etichetta torinese. E anche qui vibrazioni elettroniche sperimentali, noise attraverso Chemical Sibyl, Enlarge Your Panic, Compro Oro et Laboro. She's dancing on the dance floor, she's still a dance floor. Maybe her face is not melting off, painting selfies. All that she wants is you to take her home. Selfies, all that she wants is to take a